Buongiorno Chiesa. Come andiamo? Stiamo bene, Mino, in prima fila stamattina. Che bello averti. Dio è buono. Abbiamo avuto questo momento che è sempre molto bello, di preghiera. Ho avuto la possibilità di pregare con Angela ed è stato davvero bello. Perché a volte nelle preghiere Dio ci parla attraverso quello che l'altra persona mette in preghiera. E Angela citava qualcosa che forse può essere una frase semplice che abbiamo ascoltato tante volte, che lui ci ama per primo, però ha acceso in me una lampadina e mi ha ricordato quel verso nel quale c'è proprio la definizione di amore. Ed è in 1 Giovanni, se non sbaglio, capitolo 4, che dice: in questo è l'amore. E la Bibbia dà una definizione dell'amore, non che noi, continua dicendo, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha dato il suo unigenito figlio quale sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Noi siamo qui come Chiesa non per dimostrare il nostro amore verso Dio, non primariamente per questo, ma perché godiamo della definizione di amore per eccellenza che la Bibbia ci dimostra che è Lui che ci ama per primo, che è il suo amore che ci cambia, che è il suo amore che fa la differenza. Quindi questa mattina, prima di tutto, fammi dire questo: sei profondamente amato da Dio. E per quanto questa cosa può sembrare una cosa scontata, io spero che possa arrivare dritto al tuo cuore e possa essere qualcosa che mai niente e nessuno possa mettere in discussione. Perché lo cantiamo, lo preghiamo, lo ascoltiamo nelle prediche, però a volte c'è difficile accettarlo e far nostro. E io sento come apertura a questo messaggio di rinnovare in te la convinzione del fatto che sei amato. Tu sei amata. Amen? Dio ti ama, così come sei. Dio ti ama perché sei una sua creatura. Ed è per questo che poi tutto il resto viene di conseguenza. Se qualcuno ama, allora dà. Se qualcuno ama, allora provvede. Se qualcuno ama, allora è vicino. Se qualcuno ama, non è disinteressato. E questo è il nostro Dio per ciascuno di noi. Amen? Quindi non ti sentire lontano da Dio, non ti sentire rigettato da Dio, non ti sentire che Lui ti ha abbandonato o sei nelle mani, nelle circostanze, sei disorientato. Dio ti ama ed è vicino. Amen. Questo non era nei miei appunti, ma volevo dirvelo. Giacomo 2, versetto 19, lo vogliamo leggere insieme, l'abbiamo letto un paio di domeniche fa e segnerà anche buona parte di questo messaggio. Giacomo 2, 19, possiamo mettere un po' di luci nella sala, perché è molto scura la sala, eccoci. Buongiorno, ora vi vedo. Che belli che siete. L'hai già detto alla persona che ti sta a fianco, sei bello, sei bella. Soprattutto se è tuo marito o tua moglie, dillo con convinzione. Giacomo 2,19 dice questo: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, ma mettetela in pratica questa parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. È un'illusione se tu ascolti ma non metti in pratica. Non illudere te stesso, metti in pratica la parola, sta dicendo la Bibbia stessa. La parola ci dice di non ascoltare solo la parola ci dice mettimi in pratica. E poi aggiunge, perché se uno è un ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma, aggiunge, a un certo punto, ecco, dovrebbe arrivare il verso 25, ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, la parola di Dio è una legge perfetta. È qualcosa di meraviglioso ed è perfetta. Se mai ti dovesse venire il dubbio che la Bibbia è qualcosa di manipolato, qualcosa che per il tempo, che per gli anni che c'ha è qualcosa che è stato distorto, Cancella tutto questo perché è assolutamente sbagliato. La legge di Dio è perfetta, era perfetta, rimane perfetta e sarà per sempre perfetta, e Dio la custodirà nella perfezione. La legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Noi siamo qui perché vogliamo, da una parte, fare che? Qualcuno dice bene, ascoltare la parola, e dall'altra parte vogliamo metterli in pratica. Ora vi ho di nuovo insieme a me. Quindi da una parte, dall'altra parte, io la pagaia fino alla fine l'ho comprata, perché ci torna utile. Quindi sono andata alla Decathlon e ho detto, qui è il posto giusto, posso trovare la pagaia, e quindi l'ho presa. Questa è la pagaia. Fratelli, sorelle, amici, questa è la pagaia. E questa è la migliore illustrazione. Ilagia, vieni sul palco, io sono convinto che tu puoi mostrarci come funziona la pagaia, anche se probabilmente non sei mai andato in canoa, mi fido più di te che della maggior parte di queste persone. Quindi mostraci come può funzionare la pagaia su una canoa. L'avrei visto fare. Guarda che bravo, va. Fantastico. Cosa dici? Vabbè, anche un bambino di 2 anni saprebbe. Anche un bambino di 2 anni lo saprebbe fare. E che opa, non lo so se lo saprebbe fare, il nonno. Scherzo, scherziamo. Opa lo sa fare, secondo te? Secondo me è andato pure in canoa, vero papà? Sì, è andato pure in canoa, quindi... Quanti sono andati in canoa o in kayak? Posso vedere le mani? Ma, e chi se l'aspettava? Chi se l'aspettava tutte queste mani alzate? Quindi siete degli esperti, sapete esattamente come funziona. Quindi da una parte facci vedere la remata dell'ascoltare la parola. Ascolta la parola, metti in pratica la parola. Ascolta la parola, metti in pratica la parola. Ascolta la parola, metti in pratica la parola. Ascolta la parola, metti in pratica. Ascolta, metti. Ascolta, metti. Ascolta, metti. Ascolta, metti. Ascolta, metti. È mio nipote ed è fantastico. Grazie, Elijah. Questa la lasciamo qui? E questo è quello che noi vogliamo fare, ascoltare la parola, ma metterla anche in pratica. La canoa, se tu spingi solo dalla parte dell'ascolto, abbiamo detto che questo è il lato dell'ascolto, tu camminerai, col kayak andrai avanti, ma il problema è che disegnerai un cerchio nell'acqua. Rimarrai sempre nella stessa posizione, più o meno ti ritroverai sempre nelle stesse acque, se remi da un'unica parte. E questo noi rischiamo di fare quando ascoltiamo solamente la parola, ascoltiamo solo la parola, ascoltiamo solo la parola, e la domenica veniamo qui, e il venerdì per i giovani veniamo qui, e andiamo al gruppetto in casa il mercoledì, e ascoltiamo la parola, e ci sembra di muoverci, perché di fatto ci stiamo muovendo, ma disegniamo un cerchio nell'acqua. A un certo punto dobbiamo renderci conto che non basta ascoltare, sapere, memorizzare e conoscere, ma dobbiamo a un certo punto prendere anche l'altra parte e mettere in pratica la parola, in pratica quello che conosciamo, applicare. Io sono convinto che ci sono persone qui in mezzo a noi, fratelli e sorelle, che stanno attraversando anche delle situazioni poco facili, e questa è la situazione migliore della tua vita. Posso dirti questo? Se stai attraversando una circostanza difficile, che sia di lavoro, che sia di relazioni, che sia in famiglia, che sia di qualsiasi tipo di malattia, questa è la condizione migliore nella quale Dio ti mette per poter prendere la pagaia e cominciare a remare dall'altra parte. Perché ora tutto quello che sai, tutto quello che hai ascoltato, tutto quello che hai appreso si riduce nella possibilità di mettere in pratica la parola e uscire fuori da quel cerchio. Metti in pratica la parola. Cosa dice la parola? Tante cose. E io non avrei il tempo di citare tutto quello che la parola dice, e non posso neanche sapere quello che Dio, lo Spirito Santo, sta dicendo a te personalmente nella circostanza tua personale. So quello che sta dicendo a me nella mia circostanza personale, e so esattamente quello che Dio mi ha detto di fare, e di smettere di conoscere, di approfondire, ma di cominciare a fare della parola. Sapete, Gesù ha scelto dei discepoli, ha scelto delle persone che hanno dimostrato non grosse capacità, non tanti talenti, non tanta conoscenza, ma avevano una praticità. Le loro mani erano belle grandi, molto più della loro bocca, anche se c'era qualcuno che parlava un po' di troppo. Ma Gesù apprezzava e si circondava di persone che mettevano in pratica la parola. Per lui erano più importanti loro, di coloro che avevano la bocca larga e il cervello grande, pieno di informazioni e pieno di conoscenza. Fai la stessa cosa anche tu. Accerchiati di persone che dimostrano di mettere in pratica la parola. Non di persone che hanno la bocca larga, il cervello pieno di nozioni, ma dimostrano di vivere molto poco la parola. Accerchiati, imita, guarda avanti e osserva le persone che mettono in pratica la parola. Voglio dimostrarvi quanto Gesù ci teneva a questo aspetto, all'aspetto di mettere in pratica la parola. In una storia che probabilmente la maggior parte di noi conosce, si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, dal verso 28, e lo leggiamo insieme, è Gesù che parla e dice: che ve ne pare? A un certo punto si trova davanti a una folla di persone, lì ci sono gli scribi e i farisei, e ora andremo a vedere il contesto. Però Gesù dice: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, racconta questa storiella. Si avvicinò al primo e gli disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia. Quanti hanno un figlio che è così, no? Che ripete continuamente: non ne ho voglia. Quanti riconoscono di essere quel tipo di persona che dicono: non ne ho voglia. Stamattina di andare in chiesa, non ne ho voglia. Ruben ha alzato la mano, la so. Abbassa quella mano, se no vengo lì e te la spezzo. Non confessare il negativo sulla tua vita. Non ne ho voglia. Però, pentitosi, vi andò questo secondo figlio. Poi Gesù dice: quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, riferito agli scribi e ai farisei. I pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto, e voi che avete visto questo non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui. Vedete Gesù che cosa decide di fare? Di innalzare quelli che erano gli ultimi e di abbassare coloro che si sentivano primi, per una semplice ragione: perché i primi sapevano, parlavano, conoscevano, avevano nozioni. Gli altri invece non sapevano, non parlavano, non avevano la possibilità di creare dibattito, ma venuto Giovanni scelsero di ravvedersi, si battezzarono e cominciarono a cambiare, decisero di seguire Gesù. Se voi leggete i Vangeli, era continuamente con questo tipo di persona. Era con le prostitute, erano con i peccatori, con quelle che la società riteneva gli ultimi, ma per Gesù non erano affatto gli ultimi, perché erano persone con il cuore aperto ed erano volenterosi di avere delle mani grandi piuttosto che una bocca grande. Infatti il contesto nel quale noi leggiamo questa storia è proprio un contesto nel quale i pubblicani, gli scribi e i farisei criticano Gesù. E gli chiedono: con quale autorità fai queste cose? E allora Gesù gli fa prima una domanda, non entreremo nel merito, su Giovanni, e poi racconta questa storiella. E il motivo per il quale racconta questa storiella è per fargli rendere conto che le prostitute e i peccatori stanno entrando prima di loro nel Regno dei Cieli, stanno camminando più di loro, stanno remando nella maniera giusta e hanno la pagaia che spinge quella barca e li sta portando prima di coloro che sanno i profeti, che sanno le scritture, che sanno come, quando e perché il Messia sarebbe venuto. Gesù ama questo tipo di persone, delle persone che sono pratiche, e noi amiamo essere questo tipo di chiesa che non si veste di tanta conoscenza e di tanta sapienza, e non sto screditando la conoscenza e la sapienza, lo sapete molto bene, è tanto importante remare da una parte quanto dall'altra, ma voglio incoraggiarti a prendere delle scelte, voglio stamattina portarti a decidere di mettere in pratica quella parola che conosci, di avere il coraggio di spingere da quel lato dove sai che Dio ti sta invitando a remare. Metti in pratica la parola. Cosa Gesù ti sta chiedendo di fare? Cosa conosci che però non applichi? Cosa hai ascoltato così tante volte, ma hai applicato così poche volte? Io credo che molti di noi si trovano in una nuova stagione di vita. E in questa nuova stagione di vita è così importante che tu azzeri ogni cosa. E riparti da zero, riparti da quando tu nella tua vita hai scelto di rinunciare a te stesso, prendere la tua croce e seguirlo. Perché questo è quello che il discepolo fa. E oggi io voglio rinnovare questo invito a ciascuno di noi. Azzera, azzera tutto. Sei in una nuova stagione e riparti da zero. Riparti da zero, facciamolo tutti. Rileggiamo la Bibbia come se non l'avessimo mai letta. Riprendiamo a pregare come non sapessimo pregare. Riprendiamo a digiunare come eravamo motivati a digiunare quando all'inizio volevamo conquiste e sapevamo che potevamo ottenere quelle conquiste che Dio ci poneva davanti. Ritorniamo ad avere quella fame, quella sete, quello che sto dicendo in questo momento è così biblico perché è Dio che dice alla Chiesa torna al tuo primo amore, azzera tutto quello che sai. Azzera tutto quello che sei diventato, azzera il ruolo che hai avuto in chiesa, azzera quello che può essere stato il riconoscimento che ti ha identificato finora, azzera tutto e riparti dalla base, riparti da me, riparti dal volermi conoscere e voler mettere in pratica quelle semplici e brevi istruzioni che io voglio darti. Sapete che lo Spirito Santo così tanto desiderio di guidare le nostre vite. Sapete che lo Spirito Santo non vede l'ora di poter parlare nell'intimo della nostra stanzetta e dirci questo è il prossimo passo, questa è la prossima sfida e lo fa perché vuole fare di ciascuno di noi dei conquistatori. Questa è una delle identità che la Bibbia ci chiama ad avere. Noi siamo più che conquistatori in Cristo Gesù. Tu sei chiamato a conquistare territorio, tu sei chiamata a conquistare acqua. Non sei chiamato a rimanere nel posto in cui ti trovi oggi, ma sei chiamato a conquistare nuovi territori, nel tuo carattere, nella tua personalità, nella tua fede, nel tuo servizio, nelle scelte che devi fare per il ministero e le opere che Dio ha precedentemente preparato per te. C'è dell'altro, c'è del nuovo e il meglio deve ancora venire nella tua vita. Quindi prendi la pagaia e comincia a spingere di nuovo da quel lato dove sai che stai mancando. Il titolo di questo messaggio è, e adesso sto cominciando, pensate un po', questa era solo la premessa. Il titolo di questo messaggio è Ultime raccomandazioni. Vi ricordate di aver letto almeno una volta nella Bibbia un titoletto di un paragrafo Ultime raccomandazioni? Quando io recentemente l'ho letto mi è venuto in mente quello che spesso accade, anzi sempre accade in casa Ronchi. In casa Ronchi c'è un momento dove ci sono delle ultime raccomandazioni. E io mi sto avvicinando in quel periodo, in quel giorno, dove ci troverò le ultime raccomandazioni. Quando succede? Succede quando i miei partono. I miei partono, vanno in un viaggio e puntualmente, la stessa mattina o pomeriggio che sia, che loro partono, la casa è vuota e finalmente io vivo quella sensazione di libertà e di gioia, no? Soprattutto quando ero adolescente, si faceva baldò, cioè nell'istante stesso che i miei uscivano, già c'era un gruppo di ragazzi che entrava in casa per festeggiare, per divertirci. Però puntualmente, ogni qualvolta i miei partono, un foglio appare. C'è un foglio A4 che appare magicamente sul tavolo, senza preavviso. È un foglio con tante annotazioni, con una lista di cose da fare. Ed è preoccupante, allarmante, perché sai che quando ti affaccerai a quel foglio, la festa finirà. Perché quel foglio dice, dà proprio le ultime raccomandazioni di mamma e papà prima di partire, no? E sono, dai l'acqua settimanalmente alle piante fuori, dell'acqua giornalmente alle piante di dentro, lava, cambia le lenzuola, lava il bagno, mangia quella fettina di carne che è stata scongelata prima che guasti. E quindi tu ti senti tutta questa pressione, no? Di cose da fare e la tua giornata diventa un incubo perché cominci a sentire il peso di portare avanti una casa. Ecco, queste sono le ultime raccomandazioni. Ora provate a immaginare che i miei partiranno, credo, martedì o mercoledì, quindi già mi aspetto questo foglio. Ora, dopo una settimana loro tornano. Immaginate se io al loro rientro mi sieda sul divano con loro. La casa è in disordine, le piante tutte morte e le lenzuola ingiallite e la fettina di carne verde, putrida, no? Provate a immaginare questo scenario. E mia madre allarmata, mio padre preoccupato. E io li accomodo sul divano e dico, mamma, papà, ho letto le vostre raccomandazioni. Anzi, ma le conosco a memoria. Punto 1, lava i piatti. Punto 2, dai dell'acqua alle piante. Non solo. Ma io posso dirti che ho studiato la fotosintesi clorofilliana delle piante e so esattamente dirti qual è l'origine della parola acqua, in greco, in latino, qualsiasi sia la derivazione della parola acqua, perché l'ho studiata, l'ho appresa, te la posso spiegare, l'ho spiegata anche ad altri, i miei amici, li ho invitati, abbiamo fatto delle riunioni sull'acqua e sulla fotosintesi clorofilliana e gli ho spiegato come funzionano le piante, perché sono verdi, perché hanno le foglie e abbiamo fatto riunioni e su riunioni, è nato addirittura un movimento su tutto questo, basato sulle tue ultime raccomandazioni. Credo che mia madre mi guarderebbe e direbbe mi, perché lei mi chiama mi, la pianta è morta, come solo lei sa dire, no? La pianta è morta, le lenzuola sono gialle e nel bagno non si può entrare, la fettina di carne è uno schifo totale. Pensate quando Dio tornerà a noi. Che cosa potremo dire? Che conosciamo a memoria la parola? Che abbiamo studiato bene il greco? Che conosciamo le istruzioni? Dio è interessato al fatto che noi possiamo mettere in pratica la parola e possiamo dire, Padre, tu mi hai insegnato a non mentire e ci è voluto del tempo, ci è voluto mettermi sotto torchio perché ero abituato a dire bugie a tutti, era la mia abitudine, la mia verità era la menzogna. Ma a piccoli passi e facendomi correggere, facendomi aiutare dai fratelli e dalle sorelle, ho imparato a non mentire, ad essere sempre leale e a dire il vero. Signore, io ho letto quell'istruzione nella quale tu hai detto ama il tuo fratello, sopporta, perdona, porgi l'altra guancia. E ci è voluto del tempo, non è stato facile, ma mi sono messo in condizione non solo di conoscerlo teoricamente questa istruzione, ma di viverlo nella pratica. Io ho letto, pare che a un certo punto hai scritto pregate del continuo e non ero abituata a stare in comunione con te, non ti vedevo, non ti toccavo, non potevo vedere le tue orecchie, non potevo sapere che mi stavi ascoltando in quel momento perché era più facile parlare con mia moglie, con mio marito, sfogarmi con i miei figli, ma parlare a te che sei invisibile è stato difficile, ma ho imparato, mi sono messo in quella stanzetta e l'ho presa come abitudine quotidiana, ho disciplinato me stesso e mi sono costretto a cercarti, a imparare a pregare, a imparare a vivere ogni situazione della mia vita, sottomettendola prima e più di ogni altra cosa a te. Padre, tu hai scritto nella parola che i tuoi discepoli persevereranno nella tua parola e che leggeranno e studieranno e mediteranno la tua parola. Padre, all'inizio è stato difficile, della Bibbia non ho capito niente, è stato dura perché è un libro e io già i libri non li leggo, normalmente nessun libro mi appassiona, però ho capito l'importanza della tua parola, della Bibbia, e ho cominciato a sfogliarlo, ho cominciato a leggere dal Vangelo di Giovanni, e verso dopo verso, dandomi delle piccole sfide quotidiane, ora ce l'ho come abitudine nella mia vita, e ogni giorno leggo uno, due, tre capitoli della tua parola, e li assimilo e li metto in pratica nella mia vita. Questo è quello che Dio vuole da parte di ciascuno di noi. Questo è quello che Lui ci sta chiamando a fare. E le ultime raccomandazioni in realtà sono quei paragrafi che noi troviamo nel Nuovo Testamento, che è quella porzione di Bibbia dove più troviamo delle indicazioni pratiche, concrete, molto, molto, molto umani, molto cose da fare. Ed è particolare, ho studiato per tutta la settimana tutte le ultime raccomandazioni in tutte le lettere del Nuovo Testamento. Noi dobbiamo comprendere questo, che Dio è meraviglioso e che Dio è geniale, ha una mente molto più eccelsa e superiore alla nostra. E quindi che cosa ha fatto? Ha permesso al popolo di Dio di vivere questa rivoluzione. Rivoluzione che parte negli Atti degli Apostoli e che è chiamata Chiesa. Ha cominciato a permettere che chiese si sviluppassero in ogni città, nelle città più grandi del mondo esistente. E le persone stesse, gli apostoli che avevano fondato queste chiese, poi, guidati da Dio, hanno cominciato a scrivere delle lettere specifiche per delle chiese specifiche, locali. E in queste lettere Dio genialmente ha ispirato loro a scrivere nero su bianco, carta e penna, su fogli che hanno spedito, lettere reali che hanno spedito alla Chiesa, pensando alla Chiesa locale nello specifico alle quali sarebbero state indirizzate, ma in una maniera geniale, pensando a tutte le altre Chiese che da quel momento in poi ci sarebbero state sulla faccia della terra, nei secoli e nei millenni a venire. Quindi gli autori, ispirati da Dio, si sono ritrovati a scrivere delle istruzioni che loro pensavano fossero specifiche per la Chiesa a cui era indirizzata la lettera, ma Dio, divinamente ispirandoli, ha permesso a loro di scrivere delle lettere che sono il fondamento per vivere la Chiesa nei secoli e nei millenni a venire. Non è geniale Dio? E quindi tutte le situazioni che noi leggiamo nelle lettere, casi anche specifici, problemi che ci sono nelle chiese, e non c'è una chiesa che non aveva problemi, molto interessante questa come cosa, non c'era una chiesa che si salva, non c'è una lettera dove ci sono solo elogi, dove solo c'è scritto state facendo molto bene, vi voglio molto bene, siete geniali, pazzeschi, meravigliosi, la vostra chiesa è stupenda. Ciao e alla prossima. Non c'è nessuna cartolina di questo tipo. Tutte le lettere scritte dagli autori della Bibbia, indirizzate alle chiese, fanno evincere quelle che erano delle difficoltà, dei problemi, dei peccati presenti all'interno delle chiese. E quegli stessi problemi, quegli stessi peccati e quelle stesse situazioni sono rimaste nei secoli, invariate nella Chiesa, ed è per questo che noi oggi facciamo affidamento alla parola di Dio. Perché leggendo queste lettere, che è parola di Dio al 100%, noi oggi possiamo comprendere che cosa Dio vuole che noi facciamo. Io voglio invitarvi, vi do questa sfida, a prendere tutte le lettere del Nuovo Testamento e andare a leggere le ultime raccomandazioni nelle varie lettere. Ci sono praticamente in quasi tutte le lettere, c'è in Romani, in 1 e 2 Corinzi, in Filippesi, in 1 e 2 Tessalonicesi, in 1 e 2 Timoteo, in Ebrei, in Giacomo, in Giuda, tutte queste lettere hanno delle ultime raccomandazioni, dei pensieri che sembrano essere così, mischiati. Le ultime cose che sono venute in mente all'Apostolo Paolo o a altri apostoli da dare a quelle chiese sono delle istruzioni meravigliose che ci dimostrano qual è il cuore di Dio per la sua Chiesa, dove vuole che la Chiesa arrivi, non ascoltando solamente, ma mettendo in pratica. Vogliamo leggere le ultime raccomandazioni della lettera ai Tessalonicesi. Vogliamo leggere insieme 1 Tessalonicesi 5, dal versetto 12 al versetto 28. queste ultime raccomandazioni che a me hanno colpito particolarmente per quello che mostrano, per quello che evidenziano. Leggiamole insieme. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie o da ogni apparenza di male, dice un'altra versione. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con voi. Lascia questa slide. Guardate un po' che cosa dice a fine, a conclusione di questa lettera l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice, dopo aver dato queste istruzioni, queste ultime raccomandazioni, ma anche dopo aver scritto tante altre raccomandazioni, perché la lettera ai Tessalonicesi ha questa particolarità, molto pratica, ricca di istruzioni molto pratiche, e conclude Paolo dicendo, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso. Faccia lui stesso in modo che voi possiate vivere quel tenore, quel percorso di vita al quale lui vi chiama. E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù. E poi guardate il verso 24 cosa dice. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Io voglio che sia chiaro per tutti noi, fratelli e sorelle, che l'opera di santificazione e di perfezionamento e di trasformazione, di miglioramento nei nostri caratteri, nelle cose che possiamo fare, nelle cose che possiamo vivere, nelle scelte di ogni giorno, non è qualcosa che parte da noi, non è qualcosa che io posso dirvi e convincervi a sufficienza a fare, perché poi diventa semplicemente un rispondere a quella che è un'istruzione, una legge, un comando, e quindi diventa moralismo, diventa perbenismo, diventa un autocostringersi a fare determinate cose per una legge, ma la Bibbia dice che noi non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia di Gesù. Quindi questo è il fondamento, la grazia di Dio, il suo intervento. Lui stesso ci santificherà, lui stesso opererà trasformazioni in noi, lui stesso ci renderà irreprensibili per il giorno della sua venuta. E la mia domanda è, perché allora Paolo ha dato le istruzioni? Non bastava che scrivesse questo nella sua lettera? Perché ha dovuto dare delle indicazioni specifiche e dare delle istruzioni molto pratiche alla Chiesa? Beh, perché aveva la necessità, come noi oggi abbiamo la necessità, di sapere qual è la pratica di ciò che noi conosciamo. Come si traduce la grazia che noi conosciamo nella nostra vita, nella pratica di ogni giorno. Come tu puoi vivere quella pienezza di vita che Gesù viene e promette ad ogni persona che l'avrebbe seguito nella pratica di ogni giorno? In che cosa puoi sfidarti? Qual è l'obiettivo prossimo che ti puoi porre? Ed è per questo che l'Apostolo Paolo e anche altri apostoli, la Bibbia è piena di raccomandazioni, di cose specifiche che tu puoi darti come obiettivo. E la Bibbia ti dà questi obiettivi. E la cosa più bella che a me piace di questi versi è che l'obiettivo di Dio è una chiesa meravigliosa. Lo vedete anche voi? Cioè Dio vuole una chiesa che è bellissima, una chiesa nella quale si respira stima reciproca, amore reciproco, dove si respira sottomissione, una chiesa che fa trionfare il bene sul male, una chiesa dove c'è una continua gioia, un continuo rendimento di grazia, dove i canti sono motivati dalla voglia di dare grazie a Dio per tutto quello che Lui già fa, piuttosto che essere delle lamentazioni, dove noi dobbiamo presentare a Dio le cose che ancora Lui non ha fatto, che vorremmo che Lui facesse. Completamente una chiesa impregnata da questo amore, da questa gioia, da questa stima reciproca, da questa voglia di crescere e di andare oltre. Questa è la chiesa che noi siamo chiamati ad essere oggi. Amen? Siete contenti di questo? Siamo in questo insieme, siamo nella stessa barca con la stessa pagaia e insieme possiamo lottare e correggerci e ammonirci, perché la Bibbia anche lo dice, no? Ammonite i disordinati. Chi sono questi disordinati? Queste persone che vivono in una condizione dove non c'è ordine nella loro vita. Vedete che bello? Dio vuole che ciascuno di noi abbia una vita ordinata. E poi cita addirittura, no, il corpo, l'anima, lo spirito. Dio è interessato a tutta l'interezza della tua vita, non solo alla tua spiritualità, a questa parte mistica che a volte ci sembra così strana, così lontana. Dio è interessato anche al tuo corpo, che il tuo corpo sia tenuto in purezza, ma anche in salute. E Dio è interessato a questo per noi. Nelle ultime raccomandazioni, leggi tutte queste indicazioni molto, molto speciali. Ed è per questo che io voglio invitarti a riprendere questi versi e a dire: dov'è che devo crescere? Forse è nella stima. Vi è sembrato, no, che sono un po' stato di parte quando ho cominciato a leggere, no? Stimate coloro che vi istruiscono, amateli, prendeteli in grande stima. Ma vedete quel verso, se poi lo andate a studiare, lo dice per l'opera che loro fanno. Per amore dell'opera che loro fanno. Voi dovreste stimarmi non per Mirko, per quello che è, ma per l'opera che porto avanti, per la proclamazione dell'Evangelo. Ma questo verso ha molto senso e ha molto significato anche per coloro che guidano il tuo gruppo in settimana. Lo sai che loro fanno dei sacrifici per te, aprono le porte della loro casa, devono forse lavarla una volta in più, devono prepararsi per quello che è il messaggio che ti devono dare. Tienili in grande stima. Io credo che la Bibbia dice: prendi in grande stima queste persone. E Paolo scrive questa cosa ai Tessalonicesi, perché molto spesso queste sono le persone con le quali più abbiamo difficoltà e che meno stimiamo e più critichiamo e che più demoliamo. Fallo non per la persona che sono. Fallo per l'opera che portano avanti, perché in fin dei conti quello che loro lo fanno per l'avanzamento del regno di Dio. Quando vai al gruppo in questa settimana o nella prossima, vai a chi è il capogruppo e di: io ti stimo, io ti ringrazio, io ti amo con tutto il cuore per il sacrificio che stai facendo per noi. Vai alla persona che ti guida nel prematrimoniale o nel counseling o in quello che può essere la guida, le guide, i leader che abbiamo nei vari settori, nella lode, nell'accoglienza, nei bambini. Noi abbiamo persone che chiamiamo leader come se avessero un premio per quello che fanno, no? Hanno una nomina, sono dei capi. No, sono i servitori, sono le persone più che si mettono a disposizione. Nessuno li paga, nessuno molto spesso li apprezza per quello che fanno, eppure lo fanno con sacrificio e col desiderio di far crescere la Chiesa. Vai, stima. Forse questa è la cosa che Dio vuole dirti questa sera. O forse altre indicazioni che sono presenti in questi versi hanno a che fare con le relazioni. Una cosa comune a tutte le raccomandazioni finali delle lettere è che hanno sempre a che fare con le relazioni. Ed evidentemente, se le ultime raccomandazioni avevano sempre qualcosa a che fare con le relazioni, è perché non solo noi come Chiesa abbiamo questa sfida, ma le Chiese da sempre, nei secoli, da quando è nata, hanno avuto difficoltà nelle relazioni, hanno avuto difficoltà nel perdonare, hanno avuto difficoltà nell'amare, hanno avuto difficoltà nel vivere quella stima reciproca. Ed è per questo che sempre, in tutte le ultime raccomandazioni, troviamo queste specifiche che hanno a che fare con le relazioni. Qual è la sfida che Dio sta dando a te sulle relazioni? In Chiesa, cosa devi fare? Perdonare. Cosa devi fare? Magari servire. Non hai mai servito qualcuno. Cosa devi fare? Vivere generosità nei confronti del bisogno di qualche persona, generosità nel tempo, generosità nel denaro, generosità in qualsiasi altra forma. Qual è la sfida che Dio sta dando a te? Sappi questo, che se Dio ti affida una sfida è perché ti vuole portare avanti, è perché ti vuole far uscire da quelle acque che sono diventate stagnanti. Stai sempre lì e ci giri attorno. Qualcuno ha detto: se vuoi vedere qualcosa di diverso, comincia a fare qualcosa di diverso. Tu non puoi aspettarti di vivere qualcosa di diverso nella tua vita continuando a fare le cose che hai sempre fatto. Esci fuori da quel cerchio, comincia a fare delle cose nuove, comincia a fare delle cose diverse, e allora sperimenterai quel nuovo e quel diverso che Dio ha per te. Il meglio deve ancora venire ed è davanti a te. Prendi la pagaia e comincia a remare. Amen? Amen, ci alziamo in piedi. Voglio pregare per noi come Chiesa, che Dio possa permetterci di vivere queste cose e molto di più. Guardate bene, ho dato questo messaggio non perché credo che siamo messi male. Ho detto questo messaggio non perché credo che facciamo schifo nel stimarci a vicenda, anzi sono orgoglioso di far parte di questa famiglia, di questa chiesa. Siamo una chiesa che ama, siamo una chiesa che abbraccia, siamo una chiesa che stima. È stato solo un'esortazione, un incoraggiamento a continuare nella stessa vita, via, e a prendere per la tua vita le sfide che Dio ha per te. Vogliamo pregare, chiudere gli occhi, abbassare il nostro capo. Padre, ti ringraziamo di cuore per la tua parola. Ti siamo così grati per la Bibbia, questo libro perfetto, questa legge perfetta. E ti siamo grati per come tu hai ispirato questi autori per scrivere queste parole che sono così attuali, così concrete, così pratiche, che possiamo vivere nella nostra vita per raggiungere quei territori meravigliosi che tu hai per noi. Io voglio pregare per ogni persona che è qui in questa sala stamattina. Voglio pregare che qualsiasi sia la sfida che loro devono prendere e la scelta che loro devono fare, che tu possa dare loro la forza. Padre, io prego che noi possiamo vivere quel cambiamento di vita e prendere la pagaia e remare da quella parte dove ancora non stiamo remando. Se dobbiamo ascoltare di più la parola, faccela ascoltare di più. Se dobbiamo metterla di più in pratica, faccela mettere di più in pratica. Ma trasformaci, cambiaci, perché vogliamo migliorare. Non vogliamo rimanere bambini, ma vogliamo diventare adulti. Vogliamo passare, come dice la tua parola, di gloria in gloria, trasformati, guardando la tua presenza ed essendo da te trasformati alla statura, all'altezza di te, Cristo Gesù. Grazie per questo messaggio. E grazie per come tu ci ami a tal punto da avercelo affidato per farci vivere una nuova settimana e un nuovo percorso benedetto da te. A te la gloria e l'onore, Gesù. Amen. Amen. Vogliamo adorare il Signore con questo coro e poi abbiamo la cena del Signore.